riesce sempre a tormentar. La speranza che ogni giorno ti dà forza per campare. E l'amante tua segreta cui la mano leccherai. E il tuo sangue è misto a quello dei fratelli che tu hai. Belle che non riesce a dare pace alla sua via, di una vita con sul collo il fiato della polizia. E il ritorno di quell'aria che ti annuncia pioggia e guai. La tua notte solitaria e fiori in volto te ne vai. È un atto estremo nella scia, che la fine della pena non è mica cosa tua. Che sogni sempre di andar via, quando ogni giorno muore giù dietro la ferrovia. Non c'è speranza di andar via. Non c'è.